Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, di nuovo all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, le storie, i fatti, i personaggi che ci parlano dell'Italia vista in controluce. La bomba sul rapido 904 Napoli-Milano scoppia due giorni prima di Natale, il 23 dicembre 1984, alle 19.08, in mezzo alla galleria tra Verni e San Benedetto Val di Sambro. L'esplosione provoca 16 morti e 267 feriti. A ordinare quella strage fu il capo della mafia, Totò Riina. 26 anni dopo, e dopo alcune condanne, agli esecutori di quella strage è la Procura di Napoli a riaprire il caso con un'inchiesta che scoperchia nuovi scenari sull'epoca delle stragi mafiose. Nino Amadore ne ha parlato con Stefania Limiti, giornalista d'inchiesta, autrice del libro L'Anello della Repubblica. La prima cosa che salta agli occhi studiando e andando a ricercare elementi sulle vicende rimaste inspiegabili nel nostro paese è che questa strage è stata in un certo senso accantonata dallo Stato. È una strage per la quale sono stati individuati dei responsabili, e in particolare il responsabile principale è stato individuato in Pippo Calò, ma non convincono tanti elementi, non convince la ricostruzione che è stata fatta, il movente che è stato individuato, non convince il fatto che, pur essendo stata individuata come una strage di mafia, poi la Cassazione ha negato i benefici che la legge prevede per le vittime di mafia, per le vittime della strage del 904. Quindi innanzitutto diciamo che è bene che ci si rimetta le mani, perché lì qualcosa non è chiaro, non sono stati individuati i circuiti all'interno dei quali è maturata l'idea e poi la realizzazione della strage. I verbali del pentito Giovanni Brusca vengono utilizzati da magistrati napoletani e Brusca parla di Semtex, parla di questo esplosivo che è stato utilizzato diverse volte. Questa può essere una pista da seguire? Assolutamente, la pista del Semtex è molto seria. Il Semtex è un esplosivo molto particolare perché era prodotto nella Cecoslovacchia. Allora le sentenze che sono state fatte sul 904 hanno individuato molto in un modo abbastanza grossolano una responsabilità di Pippo Calò, individuando nella sua villa nei pressi di Rieti dei depositi di Semtex, ma in quel contesto non è stato chiarito l'uso dei congegni, insomma non sono state chiarite molte cose. Indubbiamente questa via, come dire, del Semtex può chiarire quali siano stati i circuiti all'interno dei quali veniva commercializzato questo prodotto e veniva utilizzato, e le finalità che avevano questi stessi circuiti. Quindi mi sembra un lavoro molto serio che finalmente forse può essere approfondito. I familiari delle vittime sottolineano che il fornitore del congegno che ha poi provocato l'esplosione se ne sta bello tranquillo in Germania. Mi fa pensare ad altri personaggi che lei ha raccontato, per esempio nel libro L'Anello della Repubblica, protagonisti di vicende curiose, strane, equivoche, molto imbarazzanti, e che se ne stanno tranquilli per gli affari loro. Ecco, proprio questo, hanno ragione i familiari delle vittime. Si parla di Frederick Schaudin in questo caso, ma il fatto che ci siano persone che rimangono impunite dimostra che ci sono dei misteri non chiariti, che ci sono dei nodi e delle responsabilità che non si vogliono, che allora non sono state chiarite, e che quindi alcune persone, nel caso del rapido come purtroppo in tante altre vicende, vengono in qualche modo messe nell'angolo, salvaguardate, gli viene garantita l'impunità in cambio di altro. Ma questo perché si fa? Evidentemente perché si poteva sapere di più sulle responsabilità politiche, perché in definitiva la cosa importante, ricostruendo quegli anni, studiando quegli anni, è cercare di capire perché e chi in Italia ha voluto le stragi, al di là